Carlotta non l'è morta, anzi vive insieme a noi e ogni tanto porta a casa un vecchio amico. Jimmy l'ubriacone, che è un barbone, non l'è mica pazzo, mangia, beve, dorme e non fa mai un cazzo. Non l'è andata a scuola, ma l'è colto, che c'ha due coglioni e studenti di poter ripetizioni. La politica è il suo forte, poi la storia e geografia, professore nato per l'economia. Dice che il grassone è quello che sta sempre alla TV, lei è un ladrone di tre cotte anche di più. E quell'altro, il piccoletto con la faccia da mammone, è buaiolo, falso eppure un gran cialtrone. Non lo dico io per carità, lo dice l'ubriacone, che ha girato il mondo e è stato anche in prigione. E ne ha viste tante che oramai non lo stupisce nulla, neanche il vescovo brambilla da fanfulla. Zia Carlotta se lo guarda con la faccia da incantata, mentre lui racconta il suo passaggio in India. Quando era vegetariano insieme agli uomini in salata, si grattava il culo tutta la giornata. Bella il suo Che Guevara, maledetto e bidinicche, con l'uccello grosso come la sua picche. Fu bella il suo grande amore, bello come il Celentano, mentre lui se la trombava sui divano. Una volta ci ha provato che fu quasi deputato, ma non era nei suoi panni a fare inganni. E non fu capace mai una volta almeno di rubare, tantomeno diventare parlamentare. Non lo dico io per carità, lo dice l'ubriacone, che ha girato il mondo e è stato anche in prigione. Che ne ha viste tante, che oramai non lo stupisce nulla, neanche il nano stronzo fino dalla culla. Zia Carlotta non è morta, anzi vive insieme a noi e ogni tanto porta a casa un vecchio amico. Jimmy l'ubriacone, che è un barbone, non l'è mica pazzo, mangia, beve, dorme e non fa mai un cazzo.